È metà settimana, è mercoledì, quindi come solito io ti chiedo se abbiamo qualche idea per il weekend. Tra l'altro questo weekend è particolare, c'è da tenerlo a mente, perché venerdì sarà San Valentino, sabato è San Faustino. Come lo festeggiamo? Cosa si festeggia San Faustino? Mauro, però mi devi star sul pezzo. Allora, a San Valentino ci sono cuoricini dappertutto, cioccolatini, rose, orsetti pelosi, gente che esce a cena, si dà i bacini, queste robe qua, no? Ecco, il giorno dopo tutti i single inaciditi, perché sono stati travolti da ogni parte, da tutte queste cose, escono a festeggiare e la festa si chiama San Faustino. Tipo la festa dei single che si trovano ai concerti, si innamorano e poi l'anno dopo festeggiano San Valentino. Ok, allora la missione per questa giornata è trovare un evento adatto a un single che abbia comunque voglia di divertirsi, che si sia un po' rotto le scatole nei giorni precedenti e che abbia voglia di ascoltare della musica di qualità. Secondo me dovremmo trovare allora una band che ci piace molto, che sappiamo che affronta anche temi un po' legati all'amore delle volte, però in maniera un po' malinconica, con delle sonorità interessanti. Magari troviamo anche una band che adesso mi hai fatto soggiungere alla mente, di cui abbiamo presentato il nuovo disco a novembre come disco della settimana qui a Radio Città Fucico. Aspetta, ma stai per caso parlando di una band che suona più o meno dal 2012, che ha spaziato in molti generi musicali coi diversi album e che ultimamente ha anche cambiato nome? Sto parlando proprio di loro. Prima si chiamavano Management del Dolore Postoperatorio e ora si fanno chiamare solamente Management, ma sempre loro sono. Ah, e tra l'altro il loro ultimo album, che ricordiamo si chiama Sumo, e che, beh, se per caso volete anche riascoltarvi, perché non andare a ricercarlo negli archivi di Radio Città Fucico e sentire come l'abbiamo presentato come disco della settimana, parla anche di tematiche legate un po' anche all'amore, ma non sempre proprio l'amore felice, ecco, direi. Allora, io direi anche, visto che è mercoledì e tendenzialmente a quest'ora noi facciamo delle interviste, che adesso facciamo ascoltare un pezzo tratto da Sumo, l'ultimo album dei Management. Nel frattempo telefoniamo a Luca Romagnoli, che è il frontman di questa band. Ok, perfetto, ora gli facciamo qualche domanda e tra l'altro ricordiamo sia adesso sia poi durante l'intervista che il 15 febbraio, allora San Faustino, lo festeggiamo con loro, perché i Management suoneranno proprio a Bologna al Locomotive Club, quindi perché non andare a festeggiarlo così? E allora ci vediamo sabato al Locomotive e adesso vi lasciamo l'intervista a Luca Romagnoli. Eravamo come due sbadigli, venivamo sempre uno insieme all'altro e io avevo come l'impressione che quella felicità fosse troppo grande, che fosse troppo grande e io l'avrei perduta sicuramente. Che fosse così grande che io l'avrei perduta sicuramente. Hai nascosto un sorriso nella bocca, quel sorriso è affogato nella gola, ma hai giurato e non ricordo neanche cosa, bianca come un fantasma di lenzuola. A volte ti riesco a immaginare, ma è come buttare un bicchiere d'acqua nel deserto, non diventa mica il mare, non diventa mica il mare. E torno a pensare con la testa tra le spalle, intrecciato come un gatto addormentato, che siamo tutti quanti inseguiti per sempre dal nostro passato. Hai nascosto un sorriso nella bocca, quel sorriso è affatto affogato nella gola. Ma hai giurato, non ricordo neanche cosa. Bianca come un fantasma di lenzuola. Questa vita sembra un tavolo da gioco, verde come i prati dove ho perso l'oro. Dei ricordi che rivoglio indietro ora, come un elefante vuole il proprio avorio. Siamo al telefono con Luca Romagnoli del management, non più del dolore post-operatorio, che suonerà il 15 febbraio a Bologna. Grazie Luca di essere qui. Ciao, grazie a voi. Perfetto. Allora, il 13 novembre dell'anno scorso, 2019, abbiamo presentato anche come disco della settimana qui in radio il quinto album della band, che si intitola Sumo. La band, inizialmente conosciuta come management del dolore post-operatorio, ora solo management. Domanda scontata, dov'è finito il dolore post-operatorio? Diciamo che si è trasformato, insomma, in delle cicatrici. Queste cicatrici si sono rimarginate, ci abbiamo ragionato tanto su, ci abbiamo sofferto tanto su, e adesso, diciamo, dopo aver preso coscienza di alcune cose, ci abbiamo scritto le canzoni, quindi lo abbiamo interiorizzato. È dentro di noi e questo disco lo dimostra a livello di spessore, di profondità, di sincerità, no? Un disco molto vero, molto sofferto, e abbiamo voluto sottolineare questo cambiamento, questa maturazione, perché comunque ci siamo fermati molto per scrivere, molto a lungo per scrivere questo disco. Sono passati degli anni ed abbiamo capito tante cose di noi, quindi volevamo lasciare un po' in disparte tutto quel lato provocatorio, urlatorio, tutto il casino che facevamo per lasciare più spazio all'emotività, alle canzoni, alle cose che volevamo dire, proprio alla nostra essenza come persone. Perfetto, allora io ti chiedo un'altra cosa che riguarda non più le sonorità, ma anche i temi che sono cambiati, perché dal vostro primo album, che era del 2012, se non sbaglio, a Uff, che aveva sì, sia temi che sonorità appunto molto diversi, siete arrivati a Sumo, che si distanzia molto. Quindi io volevo un pochino chiedervi dell'amore, di come parlate dell'amore all'interno dei vostri album, come è cambiato l'approccio e come è cambiata la narrazione di questo tema, che è sempre un po' molto presente. Sì. Diciamo che il nostro approccio è diventato abbastanza romantico, però nel senso letterario del termine. Io faccio una distinzione tra romantico e sentimentale, no? Il sentimentaloide è la roba da fiction, da cinepanettone, tanto per capirci. Mentre, insomma, romantico, nel senso letterario del termine, ha un significato un attimo più importante. E diciamo che così, nel trattamento della parola chiave che hai nominato, che in questo caso è l'amore, è un amore molto sofferto, è quasi sempre finito, distante, è un disco pieno di abbandoni, di persone che non ci sono più. È un amore che può essere un amore non solo verso una persona con la quale si hanno dei sentimenti e delle vicinanze anche di corpo e sessuali o comunque di cuore, è un amore anche magari verso, non lo so, per me l'amicizia o la famiglia sono comunque forme di amore, quindi un disco pieno di ricordi, pieno di nostalgia, quindi anche di cose passate. Mentre a voler fare un confronto con gli inizi, voglio dire, in gioventù l'amore è sempre vissuto con la leggerezza delle prime esperienze, col racconto anche simpatico delle prime esperienze, con anche un po' con la volgarità amichevole, no? Dello sproloquio al bar, no? Dei racconti intimi, tutta quella roba, no? Che quando si è giovani ci si sente un po' immortali, no? Ed è tutta una nuova esperienza. Mentre magari, diciamo, arrivati dopo aver capito un certo numero di cose della vita, magari le si affronta e se ne parla anche in maniera differente, no? Perfetto. Allora, guarda, prima di farti la prossima domanda, vi facciamo ascoltare una canzone che estraiamo da uno degli album vecchi. Cosa ne dici? Che canzone possiamo estrarre da uno degli album passati? fate quello che volete. Scegliamo dipende noi. Dipende quanto passati, perché per esempio nel penultimo disco c'erano canzoni come Vento, Naufragando, che erano già un inizio di questo percorso che ci ha portato a questo disco. Tra l'altro non io ce l'ho ancora in macchina e lo ascolto ancora tantissimo perché erano pezzi davvero molto molto belli. Allora sai cosa? Ne prendiamo uno da quell'album lì? Va bene, facciamo Naufragando visto che ci siamo. Allora ascoltiamo questo pezzo. Io che passo la vita ad inciampare tra le mie domande e le mie paure. Io farei di tutto per vederla ridere, se potessi sarebbe il mio lavoro. Il suo inferno sono gli altri, hanno fame dei suoi spazi, il suo inferno sono gli altri. Adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo, sei pronto per la fine del mondo. E adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo, sei pronto per la fine del mondo. In cui riesce a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro, chissà che cosa c'è. Adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo, sei pronto per la fine del mondo. E adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo, sei pronto per la fine del mondo. Invisibile e finalmente sorride, dimentica che certe persone sono proprio cattive. Allora, il 15 febbraio abbiamo detto suonerete qui al Locomotive Club di Bologna. Avete fatto alcune date con i pezzi di Sumo. Come è stato accolto quest'album dal pubblico, da quelli che sono venuti a sentire i vostri primi concerti? Allora, in realtà noi abbiamo fatto due presentazioni in acustico, quindi chitarra e voce, due showcase così, quelli che si usano fare per così come la presentazione un po' intima del disco. È stato accolto molto bene in quell'occasione, essendo situazioni scelte appositamente per essere intime, anche un po' lo semplice fatto di aver scelto di presentarci chitarra e voce. Insomma, ci poneva in una posizione molto molto molto vicina al pubblico, quindi il pubblico si è emozionato molto, perché queste canzoni sono comunque molto, ripeto, scritte in un periodo particolare della nostra vita e quindi anche molto vere, sincere, sofferte. Tant'è vero che noi temevamo un po' il cambiamento, no? Perché il pubblico a volte difficilmente lo accetta. Mentre in questo caso forse tutti hanno capito un po' che si può toccare con mano la verità di questo disco, quindi è stato accolto benissimo anche da quei fan un po' più estremi che accettano un po' il cambiamento, lo accettano poco, no? E quindi siamo contenti. Allora, io ti volevo chiedere invece un'altra cosa. Nell'ultimo album ci sono 10 tracce, tra cui anche una track collettiva. Sesso, tutto attaccato, esatto. Di questo album, se dovessimo scegliere il pezzo più rappresentativo di questo lavoro che avete fatto con quest'ultimo mutamento, insomma, sia di composizione che di temi e di nome anche, cosa sceglieresti? Bene, queste sono cose che non si dicono, però, ah, ok. Però diciamo che sì, non possiamo dire agli altri figli che ne preferiamo, che vogliamo più bene a uno, no? Hai ragione, sono d'accordo. Diciamo però che abbiamo scelto Sumo come titolo del disco, quindi quella canzone come title track, perché aveva una tematica che un po' non rappresentava, ma in parte dava un po' modo agli altri pezzi di avere una linea, quasi come se fosse un concept album, perché diciamo Sumo, con questa figura che ha del lottatore di Sumo che rappresenta il tempo, no? È il tempo che un po' crea i ricordi, è il tempo che passa che crea il passato e quindi tutta la nostalgia, la malinconia, il dolore che c'è in questo disco. E quindi diciamo che è grazie al tempo o a causa del tempo che tutte le altre emozioni forti del disco si vanno a creare in altre situazioni, in altre emozioni raccontate in altre canzoni, no? Quindi tutte le altre canzoni che sono estremamente malinconiche, tristi, vabbè non tutte, qualcuna giustamente anche allegra, sono tutte nate da ricordi e insomma, quindi il tempo è un po' la figura principale di questo disco. Beh, allora dai, non è il figlio preferito ma il fratello maggiore, mettiamola così, dai, sì, quella che guida tutte le altre. È una bella immagine. Allora, prima di ascoltare questo pezzo come chiusura di questa intervista, Mauro ti fa un'ultima domanda, mi stava facendo un cenno. Va bene. Io volevo ringraziarti perché sarai parte della giuria del contest di Radio Città Fucico sì. Suoni d'ambiente. E sì. Volevo chiederti cosa ti aspetti un po' di trovare in un contest del genere? Adesso cambiamo un pochino argomento, usciamo da Sumo. Sì. Ah, guarda, io quando me l'hanno chiesto ero contento, innanzitutto perché chi come me è sempre andato male a scuola, poi essere preso in una giuria gli fa sempre piacere, no? Essere considerato insomma importante nella scelta di qualcosa di bello. E spero e mi auguro, ma credo che sarà sicuramente così, perché insomma ricevendo un certo numero di cose da vedere e ascoltare, io penso sicuramente che ci saranno delle cose belle, siccome quando uno poi le va a cercare le trova sempre. Quindi credo e spero che ci saranno cose di spessore, profonde, vere, anche un po' non per forza alla moda, capito? Io sono un tipo che non ama molto le cose alla moda, amo e credo di avere anche un po' così, senza vanto, non mi viene un'altra parola che non sembra superba, ma nel senso il pregio di capire anche velocemente quando uno sta fingendo, no? Che sono cose che io odio,